Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alessandro De Simone di I Wonderful per presentare il film Nuevo Orden di Michel Franco in streaming sul canale I Wonderful dal 15 aprile 2021. Ben trovato. Salve, ciao Federico, salve a tutti gli ascoltatori. Sì, dal 15 aprile Nuevo Orden di Michel Franco, Leone d'argento, al Cameo della Giuria a Venezia 77, l'ultima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. È una bella, è un film molto bello, ovviamente lo dico in qualità di oste, come il vino da dire, che film è davvero notevole, ma soprattutto siamo molto felici di averlo portato in Italia in piattaforma in un momento in cui non si sapeva ancora quando avrebbero riaperto le sale e di averlo portato per inaugurare la seconda piattaforma di I Wonder Pictures, I Wonderful Prime Video Channel, che al contrario di iWonderful.it, fatta in collaborazione con MyMovies, si attiva da dicembre, è un canale SVOD, ovvero con un abbonamento mensile, mentre invece iWonderful.it è un canale pivot, dove ovvero puoi acquistare il singolo film a tuo piacimento. Per chi è all'ascolto, diamo qualche indicazione di trama rispetto al film? Ci tiene molto Michel Franco a sottolineare questa cosa, che non è un'opera distopica, perché il film è girato in un ipotetico presente, nel Messico contemporaneo, in cui nascono delle tensioni sociali e politiche molto forti che sfociano in terribili scontri e manifestazioni di piazza anche molto violenti. L'inizio del film si svolge in un ricevimento di matrimonio in una elegante villa di un quartiere esclusivo di Città del Messico, dove a un certo punto si riversa la rivolta. Quello che succede dopo è un tour de force incredibile, in un'ora e 25 minuti, oltretutto a un ritmo veramente incredibile, il film di Michel Franco, ed è una visione molto cruda, ma anche terribilmente realistica, di quello che potrebbe succedere un po' ovunque in questo preciso momento storico, ed è soprattutto una visione molto realistica di quello che è il Messico contemporaneo. Di questo regista cos'altro sappiamo? È molto amato dai festival internazionali, in particolare dal Festival di Cannes, dove in realtà già ha vinto 3 premi negli anni scorsi con i suoi precedenti film, 2 premi nella sezione al Sardegna de Gara e 1 premio per la sceneggiatura nel concorso principale. Michel Franco è un regista da tenere estremamente d'occhio, nonostante appunto non sia, questo è già il suo 6° film, se la memoria non mi inganna, non è propriamente un esordiente, non fa parte di quella schiera dei messicani che hanno conquistato Hollywood, perché ha un tipo di impostazione completamente diversa, molto più realista da una parte, e in realtà è un cineasta che ama moltissimo il cinema di Buñuel, è proprio del periodo messicano in prima istanza di Buñuel, è un regista con una visione molto personale, quasi tutti i suoi film derivano da esperienze autobiografiche, e il che fa sì che siano quasi tutti film incredibilmente intensi nelle emozioni. Lo potrete scoprire appunto con Nuevo Orden, non è detto che prossimamente non possano arrivare anche i suoi film precedenti in Italia. Ecco, di Nuevo Orden tu personalmente cosa hai apprezzato? Film è scritto estremamente bene, è girato molto molto bene, ha un grandissimo montaggio, anche le interpretazioni sono eccellenti, ma soprattutto ho apprezzato il fatto che è anche un film molto cinefilo, nel senso che ci sono tutta una serie di riferimenti molto precisi a un grande cinema militante degli anni 70, il primo che viene in mente ovviamente Costa Gavras, lo dice lo stesso Michel Franco in intervista che gli ho fatto proprio in occasione dell'uscita del film e che è disponibile sui due canali I Wonderful. E soprattutto è un film terribilmente, sottolineo terribilmente, attuale. È scritto con una lucidità che in alcuni momenti gli cela il sangue alle vene, perché davvero uno potrebbe aspettarsi che una cosa del genere la vede sul giornale da un momento all'altro. Visto che siamo in argomento, ti chiedo il tuo parere sul futuro rapporto tra l'online e la sala. Il futuro che è imminente in realtà, perché con la riapertura delle sale, anche se insomma un po' a singhiozzo il 26 aprile, di fatto molti film andranno a finire in sala. Finalmente, compreso New Holden, peraltro, così come Collective, che è un altro film, I Wonder Pictures, che è andato direttamente sulla piattaforma e che domenica si giocherà due Oscar durante la notte degli Oscar, e quindi ci sarà, diciamo, il primo banco di prova reale per capire qual è il gradimento dopo oltre un anno di pandemia da parte del pubblico nei confronti del cinema a casa o del cinema in sala. Credo sarà molto importante. I dati che arrivano dagli Stati Uniti in realtà sono confortanti per entrambe le situazioni. Godzilla vs. Kong, che in Italia uscirà il 6 maggio e dovrebbe uscire a questo punto in entrambe le fruizioni, negli Stati Uniti ha incassato oltre 80 milioni di dollari ed era uscito in contemporanea su HBO Max, la piattaforma streaming della Warner Bros. Quindi sarà molto interessante vedere quello che succede. Proprio il 26 uscirà con Academy Tucu Minari, anche questo film pluricandidato all'Oscar, che però poi sarà su Sky appena una settimana dopo, poco più. Quindi bisogna capire banalmente dagli incassi e anche dalla sicurezza che il pubblico si sente di poter avere nell'affrontare la sala in questo momento. Nuovo Orden di Michel Franco, in streaming sul canale Wonderful da giovedì 15 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro De Simone. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie, grazie. Con Beatrice Moia di Wanted Cinema, che distribuisce il documentario Le sorelle di Maria di Robert Ryan, in uscita in streaming in occasione della giornata mondiale della cannabis, il Cannabis Day, martedì 20 aprile 2021. Beatrice, ben trovata. Grazie Federico, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere qui con voi a raccontarvi di questo nostro film documentario, appunto in uscita per il Cannabis Day, di una storia tra l'altro di un gruppo di donne molto conosciute nell'ambiente, tra virgolette, veramente hanno fatto la differenza per quanto riguarda il percorso verso la legalizzazione e comunque verso l'impiego della cannabis. Raccontiamo brevemente la vicenda. Le Sister of the Valley non sono suore, loro si vestono da suore, ma non sono suore, sono delle donne, tutte tra l'altro con un passato molto difficile alle spalle, delle storie personali che sfiorano comunque la tragedia, soprattutto la protagonista, nonché la boss, diciamo, la capogruppo. La madre priora. La priora, bravo, che è questa Sister Kate. Lei appunto dopo questo matrimonio di 17 anni, tre figli, donna d'affari, molto avviata nella sua carriera, un bel giorno si ritrova il marito in fuga con tutti i soldi che lei ha guadagnato durante questa sua lunghissima carriera e la lascia sola con tre bambini senza più una lira. Decide di trasferirsi in California e cerca un modo per ripartire, ma attraverso un percorso di accompagnamento, tra virgolette, anche grazie a causa di un fratello con cui rovina poi anche i rapporti anche con lui, scopre questo mondo della coltivazione della cannabis e decide di dedicarsi completamente a questo, con l'obiettivo di coltivarla a scopo terapeutico innanzitutto. Quindi comunque spinta da un ideale di aiuto, di cura verso coloro che più soffrono. E in questo si trova vicino a queste altre donne che incontra sul suo percorso e che decidono di formare proprio una sorta di sorellanza, come dicono loro, una sorta di gruppo New Age, che comunque si ispirano ai cicli della luna, alla venerazione per la madre terra, come dicono loro, e alla madre cannabis, questa pianta comunque miracolosa e che ha veramente tantissimi utilizzi e tantissimi impieghi, che effettivamente, se applicati in un certo modo e senza soprattutto essere imbrigliati da blocchi legali, tra virgolette, potrebbero, questa magica foglia potrebbe contribuire a cambiare in meglio la nostra società, la nostra economia. Magari ti racconto un po' anche cosa abbiamo scoperto iniziando a lavorare su questo film, chi abbiamo incontrato sulla nostra strada, dei gruppi, associazioni, attivisti che ci aiuteranno a presentare al meglio la tematica. E allora vai! Abbiamo conosciuto questi ragazzi, un gruppo di attivisti sparsi, diciamo, un po' su tutto il territorio nazionale, che formano il collettivo Cannabis for Future. Il loro obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e la classe politica sui grandi benefici che può portare la legalizzazione della cannabis, e cercano proprio di fare una sorta di accompagnamento informando in modo semplice e diretto per convincere che questa pianta non deve essere vista come una minaccia, ma come una risorsa, perché purtroppo spesso se ne parla magari poco, si fa poca informazione e subito c'è l'associazione cannabis droga, e questo non è, nel senso che se impiegata in un certo modo può essere una grande risorsa. Utilizzi vari, inaspettati anche a volte, a partire da forse l'impiego più importante, che è nella medicina, quindi a scopo terapeutico, ma anche ad esempio nell'abbigliamento, può essere impiegata per i vestiti, per il cibo, per un carburante ecologico, per la cosmetica, per l'energia, e sono tantissimi appunto i benefici a cui può portare. Gli amici di Cannabis for Future, tra l'altro, si battono principalmente in questi giorni per convincere l'opinione pubblica e politica sul beneficio economico, ovvero su quanto la legalizzazione della cannabis possa portare a creare posti di lavoro che potrebbero fare la differenza e aiutare a mettere in piedi il nostro paese. Tornando al documentario, quali sono secondo te gli elementi qualificanti di questo documentario? Innanzitutto, che è stato un po' anche il motivo che ha spinto comunque Wanted a scegliere e distribuire questo film, al di là dei benefici o comunque della lotta per affermare ogni tipo di libertà civile, ogni tipo di diritto umano, che questo è importantissimo e sta alla base di tutto. Però oltre a questo, soprattutto la storia al femminile, è una storia al femminile che, sai, contraddistingue un po' tanti dei nostri titoli di Wanted, questo dare spazio comunque alle storie di donne, e alle storie di donne soprattutto, come in questo caso Sister Kate e le sue compagne, donne coraggiose e donne che riescono a riscattarsi dopo un passato difficile e complicato. Direi che questo è uno dei motivi principali, aspetto che emerge fortemente dalla storia delle sister. Qualcosa di Robert Ryan che sappiamo di altro? Non abbiamo avuto modo di conoscere altri suoi film, un regista molto coraggioso, perché come ti dicevo prima le Sisters of the Valley sono molto conosciute nell'ambiente e portano avanti una lotta molto controversa. Se ne era parlato prima, sono apparse in varie interviste, sono apparse in piccoli altri lavori, cortometraggi, cose di questo tipo, ma nessuno aveva avuto il coraggio di schierarsi tra virgolette come il regista Ryan e prendere una posizione così netta, raccontando la loro storia e facendo comunque di questo film una sorta di manifesto per tutto questo mondo che ruota intorno alla cannabis. Il documentario Le sorelle di Maria di Robert Ryan, in uscita in streaming in occasione della giornata mondiale della cannabis, il Cannabis Day, martedì 20 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento a Beatrice Moia di Wanted Cinema che lo distribuisce. Un in bocca al lupo. Grazie. E a risentirci presto. Grazie a tutti, grazie Federico. Con la produttrice Ines Vasiljevic per presentare il film Asimmetria di Masha Neskovic in streaming da venerdì 16 aprile 2021. Ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti. Come lo presenteresti questo lavoro? È un po' difficile parlare in modo veloce su Masha e anche su questo film, perché appunto è una storia molto bella che racconta Belgrado d'oggi. È un primo lungometraggio di questa giovane autrice, è insomma una notte di estate calda di Belgrado, tre storie che si intrecciano, tre mondi, tre generazioni. È una storia molto calda e molto accogliente, molto intima per certe cose, no? Un po' come le stesse note che descrive Masha di Belgrado. Come siete entrate in contatto tu e Masha? Io di origine sono di Belgrado, però da tanto tempo che non ci vivo, insomma vivo in Italia da tantissimo tempo, prima a Torino e poi a Roma, e una volta un paio di anni fa mi hanno invitato ad essere ospite di uno di questi pitching forum dove si presentano progetti. L'ho sentito appunto, insomma, tra i tanti pitch anche quello di Masha. Mi sono innamorata della storia, ma anche molto del suo modo di raccontare questo mondo che, insomma, malgrado la nostra differenza di età e malgrado il fatto che io da tanto tempo mancavo da Belgrado, l'ho sentita vicinissima, perché come ben sai da tanto tempo, insomma, tutti i film e tutti i racconti che arrivano dal territorio dell'ex Jugoslavia purtroppo sono anche connessi ad un evento tragico, no? Che è stata appunto la guerra nei Balcani. E quindi così un paio di anni fa ho incontrato Masha, poi ci siamo un po' persi di vista e di nuovo l'ho rincontrata in un film festival che si chiama Les Arcs, dove cercava di chiudere appunto il progetto del financing. Insomma, mi ha solo confermato un po' quello che pensavo, sia del suo progetto ma anche di lei. Abbiamo iniziato a lavorare insieme e anche grazie appunto al Ministero dei Beni e delle Attività del Turismo, che non si chiama più così ma si chiama Ministero semplicemente senza turismo, e del bando delle coproduzioni minoritarie, siamo riusciti a trovare anche dei finanziamenti in Italia e chiudere una coproduzione vera, insomma. Cosa ti ha convinto maggiormente di questo progetto, della sua idea? Ti ripeto, un po' il fatto che io per tanto tempo cercavo una storia proprio che raccontasse la Belgrado che io mi ricordavo appunto prima di venire in Italia, una metropoli, una Belgrado intima ma anche molto urbana, no? Fuori da ogni possibile narrazione, no? Che ha a che fare con la guerra, che in un certo senso con certe mitologie rurali che arrivavano, no? Molto nel sud della Serbia, entroterra e così via. Quindi una storia che appunto mi ha colpito soprattutto per questi toni, e anche ovviamente Masha. Io conoscevo cortometraggi, documentari e insomma ho sempre pensato che fosse un talento, e devo dire che anche con suo esordio me l'ha confermato. Credo che sia comunque una regista, un'autrice di cui se ne parlerà nel futuro. Ecco, qual è stato il suo percorso? Hai detto cortometraggi, quindi viene da quelli? Sì. Lei ha fatto l'Accademia dell'Arte Drammatica di Belgrado, come tutti gli studenti appunto della regia cinematografica, inizia molto presto a fare cortometraggi, poi ha fatto anche dei documentari e ha lavorato anche tanto sul set come assistente alla regia. C'era un film in particolare dove lei ha fatto il coach per i bambini attori, che noi conosciamo molto bene perché ha preso un premio a Venezia. Il film si chiama, tradotto in italiano, Figlio di Nessuno, invece c'è in lingua originale e Nici Edete, dove lei ad esempio ha fatto appunto coach per i bambini attori e anche casting. Il film è del 2019, che percorso ha avuto finora? Sì. Anteprima è stata fatta a Trieste Film Festival, è un festival molto bello, un festival dove si incontra est con ovest, un festival dove si incontra nord con sud, e è sempre stato molto attento ai film e agli autori dell'est, no? E anche quelli ovviamente dell'Europa centrale. Purtroppo dopo il giro dei festival che ha fatto nel mondo, speravamo fino all'ultimo che potessimo andare al cinema, no? Ad avere una distribuzione cinematografica. Insomma, l'abbiamo atteso per un po', però siamo molto felici appunto di avere la possibilità di metterlo su questa piattaforma nuova, che sicuramente fa, forse almeno all'inizio, molta differenza rispetto no, all'anteprima di un film sulle piattaforme che conosciamo già, no? Perché comunque in qualche modo è un po' una novità, e questa è la cosa molto bella, e sicuramente la selezione sarà molto ricercata. Asimmetria di Masha Neskovic, in streaming da venerdì 16 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento alla produttrice Ines Vasiljevic. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille per l'attenzione. In bocca al lupo per tutti noi. Grazie. con Monica Maurer del Cineforum Palestina per presentare il film Between Two Crossings di Yasser Murtaza, giovedì 22 aprile 2021. Monica, ben trovata. Come va? Tutto bene? Sì, resistiamo bene. Sì, attivi come sempre. Sai, il Cineforum ora con questo più di un anno di lockdown vari non l'abbiamo potuto fare, chiaramente come sempre. E io cercavo di evitarlo la virtualità, ma tante richieste di ricominciare a vedere dei film palestinesi, abbiamo deciso di fare questo, è il primo Cineforum Palestina online. Ecco, raccontiamo anche un po' l'esperienza del Cineforum. Sì, l'abbiamo cominciato nel 2013 a cercare a promuovere e far conoscere la cinematografia palestinese, soprattutto delle nuove generazioni. Abbiamo fatto ogni mese, il primo giovedì del mese, un film palestinese, di solito con un collegamento Skype col regista o la regista, tante registe anche, un sacco di incontri molto appassionati e interessanti. E in 7 anni comunque si è formato una vera comunità, si può dire, è aumentato da anno in anno il pubblico, e penso tutto sommato che anche ha aiutato a crescere non solo la consapevolezza della situazione drammatica in Palestina, ma anche la conoscenza appunto della cultura palestinese. Questo Between Two Crossings che tu hai accennato è un film bellissimo, molto forte, molto emozionante, su una ragazza, Nur, una studentessa a Gaza, che come tutti sappiamo è una specie di prigione a cielo aperto, che ha vinto una borsa di studio negli Stati Uniti, e lei è intrappolata a Gaza tra i due unici vie di uscita, che sono i checkpoint di Erez, che è controllato dagli israeliani, e il passaggio Rafah, controllato dai egiziani. Malgrado tutti i permessi possibili, non riesce a sfondare in questa massa di migliaia di persone che cercano di uscire per ragioni familiari, per ragioni di salute, per ragioni di lavoro. E quindi Yasser Murtaza, che è un giovane, era, perché Yasser, dopo che ha finito il film sul quale ha lavorato 2 anni, è stato ammazzato da un cecchino israeliano mentre faceva un servizio sulla grande marcia del ritorno, no? Che sapete che da 2 anni interrotto dalla pandemia, ma ogni venerdì si andava verso la frontiera con Israele a manifestare il diritto del ritorno. E lui era un promettente giornalista, regista, molto attivo e cofondatore di una cooperativa, la Ein Media Production a Gaza. Ci ha lasciato in eredità questo bellissimo film che mostra la determinazione di questa ragazza, la crescente disperazione appoggiata da tutta la famiglia, la madre va tutti i giorni, lei per settimane va al secondo, alla fine ce la fa, e se abbiamo molto fortuna riesco a averla nel collegamento Zoom dopo il film, per il dibattito dopo il film. Comunque il film, oltre alla storia di Nur, che è anche una storia emblematica per la negazione dell'occupazione e della politica coloniale di Israele al diritto allo studio, uno dei diritti fondamentali, no? Garantiti almeno teoreticamente dalle convenzioni di Ginevra, ma della enorme limitazione della possibilità di movimento e poi della violazione della dignità umana, no? Dei diritti fondamentali. E poi, soprattutto nell'ultimo paio d'anni, ha aumentato moltissimo Ma questa negazione del diritto allo studio concernono solo gli studenti universitari? Per esempio a Bezeit in Cisgiordania la repressione contro gli studenti, gli ultimi mesi hanno arrestato più di 100 solo per aver fatto delle critiche o postato delle critiche su internet contro l'occupazione, la politica di occupazione, la distruzione delle case, le punizioni collettive, eccetera. Ma questa negazione del diritto allo studio vale anche per i bambini delle scuole elementari. Devono passare spesso più di uno di questi checkpoints, cioè crossings, no? Militari, dove devono attendere per molte ore, vengono perquisiti le loro borse di studi o anche perquisizioni corporali, devono subire molestie, detenzioni, e tutto questo ha triplicato negli ultimi, come dicevo, anni e mezzo, due anni, cioè sotto il benestare di Trump in Cisgiordania, ma anche a Gerusalemme Est. È chiaro che questi bambini crescono fin da piccoli con violenza e quindi conseguentemente hanno dei disturbi psicologici e continua violenza, umiliazione. Poi non solo contro gli studenti, ma spesso anche contro i familiari e spesso anche soggetti di punizioni collettive, chiaramente proibito dalla Convenzione di Ginevra. E l'aumento, soprattutto in questi due anni, c'è un vertiginoso aumento di arresti perfino di minori. Al momento ci sono quasi 5.000 prigionieri palestinesi nelle prigioni israeliane, di cui sono 550 minori a partire dai 12 anni, con 130-140 donne, e poi tantissimi, più di 1.000 civili in questo che si chiama detenzione amministrativa, che è una legge introdotta dagli inglesi quando la Palestina era mandato britannico, appunto. Questo vuol dire che tu sei sempre per 180 giorni che possono essere rinnovati all'infinito in prigione senza processo, senza rappresentanza legale e senza un'accusa scritta, insomma documentata. Insomma, questa situazione è angosciante, che è ancora peggio ora perché la pandemia anch'essa ha aumentato la pressione sulla popolazione, e quindi il nostro obiettivo è di fare in tempi in cui quasi oltre al corona non ci sono più news, pare. Qui l'Italia è particolarmente evidente. Insomma, il 90% delle notizie sono occupate del corona e non c'è più, per quanto poco ci fosse stato, un occhio su quello che succede nel mondo e men che meno sui palestinesi. Quindi il nostro tentativo è anche di accendere un faro, per un attimo almeno, sulla tragedia che i palestinesi vivono in Palestina, in Gaza e nella Cisgiordania occupata. Per seguire il film c'è il canale YouTube dell'archivio, c'è la pagina Facebook dell'archivio di OpenDDB. Esatto, esatto. Between Two Crossings di Yasser Murtaza, giovedì 22 aprile 2021 in diretta streaming. Un saluto e un ringraziamento a Monica Maurer, una delle curatrici del Cineforum Palestina. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, grazie, grazie Federico. Ciao. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.